YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16:05 minuti a Radio 24, rieccoci insieme con le nostre due ore in diretta del sabato con RadioTube Social Village e Social Network. Allora, un sacco di cose belle da raccontare per quanto riguarda la prima ora. Abbiamo degli incontri con degli artisti speciali, parleremo anche di serie TV, parleremo poi di teatro, parleremo di quanto ci può tenere compagnia il teatro in questi giorni e di come ci può tenere in compagnia il teatro in questi giorni. Poi nella seconda ora parleremo dell'attualità, della rete e dalla rete, come sempre con l'ora di RadioTube Social Network e con un co-conduttore speciale, con il co-conduttore d'eccezione che ogni sabato scegliamo per stare insieme fino alle 18. Per tenervi in contatto con noi, il numero per i vostri sms e whatsapp è 349-238-6666, ma ci sono anche i miei account social, Twitter e Instagram, @ Marta Cagnola. Con cosa partiamo questa settimana? Questa settimana partiamo con le serie TV, intanto segnalandone una proprio fresca fresca, anzi calda calda, che è appena uscita. Perché io odio l'estate. Perché non posso avere amici normali? Summer. Che nome strano. Non mi sono mai sentito così. È che ti incazzi, perché vuol dire che c'è chimica. Vuol dire che... Bella Summer, fatta bene. Le parole non contano, le faccine sono importanti. Ha risposto Scimmietta. Scimmietta è molto buono. Da quando ti sei messo con quella, sei ammalata tutta a puttane, tutto. Mi sento proprio la stupida. Non sei stupida, sei innamorata. E va bene così, se abbiamo perso davvero il controllo. Colonna sonora di una serie appena pubblicata da Netflix che si chiama Summertime, una serie teen che a me ha divertito molto, ve lo confesso. A me le serie con i ragazzi protagonisti piacciono, questa sarà un po' ingenua. Poi ha una colonna sonora davvero carina. Perché parliamo di Summertime? Perché sarà una delle serie di cui si parlerà in un festival dedicato alle serie TV. Ma quando? Come? Beh, il 3 maggio, dunque domani, ovviamente online. Si chiama GoFest, è il primo evento interamente online dedicato alle serie TV, creato dal Festival delle Serie TV, un evento che avevamo seguito dal vivo qualche mese fa, adesso però si trasferisce online per la giornata di domani. Ne parliamo con la direttrice artistica Marina Pierri. Ciao Marina! Ciao Marta! Che bello sentirti, poi con questa colonna sonora di Summertime in sottofondo, mi diverto molto perché è una serie che ci porta al mare, ci fa sentire un po' di quella bella atmosfera delle vacanze che ci piace ricordare del passato e che speriamo di ritrovare presto in qualche modo. Marina, ti chiedo com'è nata l'idea di questo GoFest? L'idea è nata ovviamente da il Festival delle Serie TV. Noi siamo, l'evento che facciamo domani, è importante precisare che non va a sostituire l'evento fisico, soltanto che Marta, come ben sai, noi siamo ovviamente come tutti nel mondo degli eventi, in questo momento navighiamo a vista, però ecco, non vogliamo stare con le mani in mano, specie in un momento nel quale in realtà le serie TV sono estremamente importanti. Io faccio l'esempio che i dati Nielsen riportano che rispetto a queste stesse settimane del 2019 c'è stata un'impennata del 109% dello streaming, quindi immagina quante serie TV ci stiamo guardando. Io per prima, perché alla fine la serie TV ti tiene compagnia, la puoi guardare in qualsiasi momento, puoi decidere se guardarne un episodio alla volta o fare le maratone, io per prima, e poi tanti nostri ascoltatori, perché quando parliamo di serie TV arrivano un sacco di messaggi. Ma cosa succede in un festival online? Ecco, sì, quello che devo precisare è che questo è sì il Festival delle Serie TV che siamo noi, ma è, diciamo, è un evento speciale nella misura in cui siamo alleati a una importante realtà di divulgazione culturale che sono i CLON, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, e insieme abbiamo deciso di dedicare questa giornata alla serialità televisiva, quindi una lunga maratona nella quale si discuterà di serie TV non soltanto con esperti di altri campi, perché le serie TV sono molto trasversali, le guardano tutti, ma anche naturalmente con i protagonisti delle serie TV stesse, tra cui Summertime. Per dire un po' come si sviluppa, io uso sempre un po' l'analogia della vecchia televisione, se vuoi, la vecchia televisione che non è vecchia perché è quella che ancora è in tutte le nostre case e che guardiamo, però ecco, la televisione che non è on demand, il cosiddetto palinsesto, quindi certo, noi avremo praticamente un palinsesto dalla mattina alle 10.30 fino alla sera verso le 21, sarà un continuo alternarsi di panel e di voci differenti che discuteranno anche temi molto rilevanti per la serialità televisiva, che dal nostro punto di vista è intrattenimento, però è anche straordinariamente utile per aprire delle finestre sulla realtà e offrire spunti di dialogo. Ci sono tanti temi molto interessanti, perché parlerete di disabilità, di politica, di impatto ambientale, di legal drama, insomma sono argomenti di attualità visti attraverso le serie, però ovviamente vogliamo sapere come fare ad assistere domani. Ah beh, domani in realtà è molto semplice, perché basta andare sul sito di GoFest, go-fest.com, cliccare sul tasto della diretta e godersi tutto quanto, appunto, questo palinsesto che noi abbiamo creato. Ma saremo anche in onda, diciamo tra virgolette, sui canali CLON, sui canali del Festival delle Serie TV. Quindi insomma sarà molto semplice connettersi, sarà molto semplice guardare. Parallelamente a questo, quello che chiamiamo il virtual stage, si accenderanno anche una serie di dirette Instagram con una serie di protagonisti della serialità televisiva, penso per esempio appunto a Tony di Summertime, oppure penso, no, in questo caso non protagonisti della serialità televisiva, ma sempre persone, musicisti in questo caso, che hanno dei cameo dentro Summertime, come i Comacose. E poi ci saranno anche sempre su Instagram degli appuntamenti un pochettino più ludici, più divertenti, come per esempio l'astrologia nelle serie TV e delle serie TV. Quindi avremo due astrologhe come Melissa Panarello e Lumpa, che invece è l'astrologa di Vice, che faranno i profili astrali di alcuni personaggi delle serie TV. Quindi ecco, momenti seri, come dici, momenti seri, momenti utili, importanti, però anche momenti di intrattenimento, momenti leggeri che aiutano a trascorrere una giornata che speriamo possa essere differente dalle altre. Ci portate anche un po' dietro le quinte, cercando di capire come si scrive un soggetto, come si propone un pitch, insomma ci sono anche quasi dei laboratori, mi verrebbe da dire, possiamo imparare anche qualcosa di nuovo, di interessante dietro le quinte delle serie TV. Assolutamente, perché avremo due ospiti d'eccezione in questo senso, che sono Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, che sono due degli autori per esempio di Gomorra e di 000, ma anche sono già lanciati in tante produzioni internazionali, e con loro capiremo come valutare se magari la propria idea per una serie TV è buona, come poi costruirla in un soggetto e come magari imparare poi a proporla degli studi di produzione, successivamente eventualmente alle piattaforme oppure alle emittenti. Quindi sì, ci sarà anche questo tipo di momento pensato proprio per le persone che magari hanno usato questa quarantena, che ormai sessantena, per scrivere un po' i loro soggetti, per farsi venire delle idee creative. Con il gran finale con Silvio Orlando, domani sera alle 7:30, io, guarda, stavo per dire non me lo posso perdere, però in realtà ci sono un sacco di appuntamenti che mi interessano, quindi io magari tengo lo streaming che va e ogni tanto mi affaccio così, perché quando c'è qualcosa che mi interessa ci fisso l'attenzione, perché altrimenti domani veramente rimango tutto il giorno dalle 11 a guardare tutti gli incontri. Vabbè, posso anche farlo, tanto domani non lavoro e soprattutto dove dovrò mai andare, tanto sto in casa. Appunto. Marina, ci puoi ripetere agli ascoltatori come fare per vedere tutti questi incontri domani sulle serie TV, con i protagonisti, con i realizzatori, con esperti di temi di cui si parla nelle serie TV? Ma certamente, basta andare sui canali social del Festival delle Serie TV, il Festival delle Serie TV è proprio scritto così, e poi anche i canali social di CLON, però anche una maniera molto semplice, forse la più semplice di tutte, è scrivere nel proprio browser go-fest.com. www.radiocomedy.com e poi semplicemente cliccare sulla diretta YouTube e potersi così godere tutta quanta la giornata in assoluta serenità mentre si fanno magari anche altre cose, perché è un momento nel quale si guarda ma anche si ascolta. Mi hai beccato che domani io devo fare un po' di pulizie, quindi mi metto, le cuffiette e ascolto mentre passo l'aspirapolvere. Ok, sì, mi hai beccato, hai capito come sarà la mia giornata di domani. Vabbè non solo io. Grazie, allora in bocca al lupo per questa iniziativa che a me piace davvero tanto, perché organizzare in questo periodo non è facile, però è una bella cosa che ci tiene molta compagnia. Grazie a Marina Pierri, a presto Marina, ciao. Grazie Marta, ciao. Noi facciamo una brevissima pausa, viabilità e poi musica. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Radio Tube Social Village 349-238-6666. Damiano da Roma scrive: mi sto rivedendo tutto Dr. House. Beh, una bella maratona di un sacco di stagioni per questa quarantena. No, non ci sono domani nel GoFest, il festival online delle serie TV, non ci sono incontri sui medical drama, però ci sono tanti altri argomenti interessanti: profezie, distopie, legal drama, la disabilità, la politica, la stand-up comedy, la rinascita femminile. Quindi secondo me te la puoi godere anche tu questa giornata sulle serie TV, soprattutto poi se come me hai da fare in casa. Ma appunto, poi dove dobbiamo andare domani? Da nessuna parte. Potremmo ad esempio ascoltare della buona musica e sono molto contenta di festeggiare il ritorno di un artista che tra l'altro ieri sera abbiamo visto sul palco di un particolarissimo primo maggio. Lo vorrei introdurre così. Volevo dirti una parola differente da quelle che magari ti hanno detto già. Com'è difficile rimanere originali mentre tutto scorre ad alta velocità. Come farò ad attirare l'attenzione, fare colpo su di te, mentre corriamo perché piove, ci rifugiamo in un portone. Se un amore è solamente un'invenzione, come dici tu, allora perché restiamo qui bagnati e non ci stacchiamo più? Non è il buio che ci inghiotte, ma la voglia di restare insieme un'altra notte. Una parola differente. È un momento importante per avere parole differenti e questo è un brano delizioso che ha pubblicato il 24 aprile. Alex Britti, benvenuto Alex. Eccomi qua, ciao, bentrovati. Allora, io ti vedo, perché noi siamo collegati in video, in un bel giardino con il tuo meraviglioso bimbo Edo che gioca con la bicicletta. Col piccolino. Che meraviglia. Sì, beh, dai, con un piccolino la quarantena è all'indaffarata, sì. Poi devo dire, sì, abbiamo però la fortuna di avere questo giardino che è comunque una bella valvola di sfogo, no? Quindi non mi lamento, no, siamo sempre all'aria aperta, siamo sempre di fuori, almeno lo faccio arrampicare, come vedi, sulla bicicletta, e un po' si sfoga, insomma. Spettacolare. Alex, cosa ti ha spinto a pubblicare questo brano? Perché era da un po' che mancavi con delle novità e uscire proprio in questo periodo un significato ci avrà. Ma perché non bisogna mai fermare... Non bisogna fermare l'arte, non bisogna fermare la creatività, e non si ferma. È soltanto che abbiamo deciso, questo in realtà doveva uscire qualche settimana prima, Poi abbiamo un po' rallentato, visto il caso, e abbiamo detto non è, insomma, non è il momento. Poi, visto che la situazione si è un pochino tranquillizzata e comunque ora dovremmo andare avanti in questa apparente normalità per un po', dobbiamo conviverci, quindi mica possiamo stare lì ad aspettare, quindi prendiamo per mano questa nuova normalità, speriamo momentanea, e andiamo avanti. E quindi ho deciso di uscire lo stesso con la canzone. Una parola differente è un brano, diciamo, anti-superficialità, perché in questi anni tanto abbiamo dato all'apparire anche a causa dei social, però in questo periodo i social ci hanno anche permesso di interagire con le persone, di avere dei contatti umani. È stato un periodo che ci ha fatto scoprire molte cose. Ma il social è semplicemente un mezzo, poi come tutte le cose bisogna vedere come lo usi, no? Anche una pistola, se non la punti addosso a nessuno e non schiacci il grilletto, è innocua. Quindi dipende in che modo si usa. Di solito se si usa in modo superficiale è superficiale, se si usa in modo intelligente magari può servire, può essere costruttivo, può essere creativo e servire a qualcosa di utile. Lo è stato in questo periodo, tra l'altro devo farti complimenti per il corso di chitarra che hai fatto, raccogliendo anche un sacco di fondi per l'ospedale di Niguarda, se non ricordo male. Niguarda, sì. Sì. Mi sono sentito in dovere di essere utile, non essere personaggi pubblici soltanto, insomma, per farci ammirare, no? Ma anche per scendere in campo ogni tanto quando serve. In questo momento serviva, penso che la cosa che so fare meglio è suonare la chitarra. Mi sono messo a disposizione, ho detto vabbè, chi vuole imparare qualcosa, chi vuole qualche dritta me la chieda. Bellissimo. Ovviamente gratis, ovviamente, però avevo a disposizione un numero solidale che mi ha messo a disposizione la Nazionale Cantanti, con il quale si potevano donare attraverso un SMS 2 euro all'ospedale di Guarda. Quindi ho fatto queste 3 settimane di corsi di chitarra, trovando 50.000 euro da dare all'ospedale, che sono, insomma, non saranno milioni, però fanno comodo. In momenti come questo fanno molto comodo. Una bellissima cosa. Tra l'altro, passare la quarantena insieme a uno strumento è una bella compagnia, una bella consolazione. Credo di sì. Solo che il mio strumento in questa quarantena è lui. Quando lui si addormenta, se fa la pennichella il pomeriggio e la sera dopo le 10, 10:30 quando se ne va a dormire. La chitarra ci ha già giocato, Edo? Sì, certo. Perché ci mancherebbe, ragazzi, qua, cioè, Gli ho dato un chitarrino, io lo chiamo, sarebbe un Gitalele, che è una chitarrina che serve ad emulare l'ukulele, che quindi è a tutti gli effetti una chitarra, perché ha 6 corde e accordato come una chitarra. E gliel'ho dato da subito, quando aveva già 5-6 mesi, quindi lui è cresciuto strimpellando. Ovviamente non mette gli accordi con la mano sinistra, però con la destra dran, sta lì e si fa le sue schitarrate, le sue strimpellate ogni tanto. Era da un po' che non pubblicavi qualcosa di nuovo, perché? Perché quando si sta un po' zitti c'è sempre una ragione. Ma allora, io in realtà l'ultimo singolo pubblicato era proprio il giorno che è nato lui. Quindi la ragione è che l'ho fatto, ho preso una lunga rincorsa prima di decidermi di diventare padre, quindi l'ho fatto, lui è nato, io avevo 48 anni e io ho iniziato poi a lavorare molto presto, ho iniziato a stare sul palco e a fare spettacoli da bambino, il primo anno di spettacoli penso che avevo 11 anni o 12 anni e non mi sono poi mai fermato, e quindi ci sta che ogni tanto uno si ferma un po' a respirare e si affaccia dentro un'altra vita, che non vuol dire non suonare, ma vuol dire non continuare a fare, appunto, interviste, viaggi, concerti, anche perché volevo stare un po' con lui. Quindi mi sono sentito in dovere di fare il papà, di fermarmi, ho fatto il papà per un po' di tempo, poi ho continuato a diluire il tempo, perdendo tempo, diciamo, tra virgolette. E mi sono fatto un anno, sono stato giudice, l'insegnante alla scuola di amici, sempre perché così rimanevo in zona e non dovevo partire in tour, non dovevo allontanarmi da lui. E quindi ci ho messo un po', poi all'inizio di quest'anno sono uscito con la canzone British, quella fatta con Salmo, sempre per giocare, per stimolarmi e sempre per affrontare nuove sfide, nuove sonorità. Un musicista si deve sfidare, no? deve avere a che fare con, con cose sempre diverse e sempre stimolanti. Quindi sto cavalcando adesso questa sonorità più attuale, e poi dopo British adesso è uscita una parola differente che ha comunque una sonorità, non dico del futuro, però almeno del giorno di oggi. Sì, perché noi della generazione X, per essere così un po' generici, ci sentiamo, cioè viviamo in un mondo che ci fa sentire sempre ragazzini, però intanto la musica galoppa. Eh sì. A noi ancora facciamo, hai sentito quanto suona moderno oggi quel disco? Invece no, ci suona moderno a noi, ma alle nuove generazioni, quelle cose che noi diciamo quanto suona moderno non suonano moderne per niente. E quindi c'è sempre un'evoluzione ed è importante, anche Miles. Ora non vi voglio paragonare a mostri sacri come lui, però anche Miles ha sempre inseguito il momento e mai il passato. Era un innovatore, il jazz è innovazione, anche il blues era innovazione. Miles ha cambiato stile un sacco di volte, è finito super fusion elettronico e lui il jazz l'ha inventato negli anni 40, negli anni 50. Quindi evolversi penso sia proprio la benzina di ogni musicista, di ogni artista, per ogni forma d'arte. Hai detto una parola magica pochi minuti fa, hai parlato di live. È un periodo difficile per tutte le persone che lavorano in questa che è una vera industria. Lo chiedo un po' a tutti gli artisti perché voglio sottolinearlo ogni volta quanto sia un momento difficile e delicato. Fermando il live fermi tutto l'indotto che c'è oggi nel mondo della musica. Visto che i dischi non esistono più, non è che non si vendono, c'è quasi più il formato, il supporto meccanico, no? Il fisico. Oggi la musica è digitale e la musica digitale non paga, o comunque paga pochissimo, quindi tra un po' se si ferma anche il live vuol dire che in un certo senso sparirà la musica, spariranno le produzioni musicali, le nuove leve non avranno più spazio e via dicendo, perché ovviamente Spotify è fighissimo, Apple Music, queste cose qui, però non ce la fanno a finanziarlo, quindi è come se finiscono i soldi per il mondo del calcio, addio calciatori, addio dirette TV, addio telecamere digitali, ma ricominceranno con le telecamere meno buone, così succederà nella musica, cosa che già un po' è successo apposta, poi adesso oggi in radio parecchie cose hanno un suono molto simile, perché la musica viene fatta a casa con mezzi di fortuna, quindi dopo questa crisi, poi ovviamente la musica dal vivo, chi sa suonare continuerà a suonare, perché poi di musica ce n'è bisogno, però speriamo si riparta presto, insomma, perché crea un buco, si fa presto poi a dire ma i cantanti di qua e di là, ma il cantante per un concerto è uno, ma a lavorare siamo in 40, e ci stanno fonici, elettricisti, autisti, facchini, quelli che montano il palco, quelli che montano le luci, e loro non ce la fanno a sopravvivere un po' di mesi con zero aiuti dallo Stato e senza lavorare, insomma. Quindi dovranno destinarsi ad altri lavori e ci sarà un buco importante, quindi adesso speriamo di ripartire con i concerti il prima possibile. Ultima domanda, esce un singolo però non c'è il progetto di un album, sembra un po' anni 60 quando uscivano i 45 sì, perfetto, giri. Perfetto, ho voluto imitare i Beatles, ho fatto un'imitazione, voglio fare uscire, tanto oggi uscire con l'album secondo me non ha senso perché non si guarda l'album, ma esce una canzone come singolo e la gente va cliccando quella che vuole ascoltare, si fa le playlist, non c'è proprio questa urgenza dell'album. Allora ho preferito fare al contrario, fare uscire un pezzo ogni due mesi, a scadenza di due mesi, prima British, ora una parola differente, magari verso l'estate, fine estate faccio uscire un'altra canzone e poi quando ne saranno uscite 3, 4, 5 le racchiuderò in un album che a quel punto ci sarà anche un po' di qualcosa in più, diciamo, no? Che allora poi lo vedrai come un album, però in questo momento storico lo vedo più come la fine, il centro di un progetto e non la partenza. Mi piace moltissimo. Grazie Alex, ti abbraccio tanto. Dai un bacio grande a Edo che è irresistibile. Con il suo pigiamino di Snoopy meraviglioso. grazie. Un abbraccio grande, a presto. Ciao Alex. Ciao, un bacio, ciao. RadioTube Social Village. E grazie Alessandro che su Twitter mi fai notare che ho detto che meraviglia, anche se spero di avere un attenuante perché mi riferivo al bimbo di Alex Britti che voi purtroppo non potevate vedere, ma io sì perché il collegamento è stato fatto via Skype, che è davvero meraviglioso. Ma mi è scappato, ma perché si parlava di un bambino e io non resisto. Musica, ancora buona musica, ottima musica. Di lui avevamo già parlato un paio di settimane fa, ma finalmente è uscito il suo album e qui è un altro incontro che ci tenevo a fare a RadioTube insieme a voi. Lo introduciamo così. Scusa, lo so che non ho una bella cera. Sono andato a dormire alle 4 ieri sera. Poi la sveglia puntuale mi ha urlato cose astruse. Io l'ho spenta perché il cervello non traduceva. Ho provato in più modi a allentare la tensione. È da un po' che mi sento strano e stralunato. Freddo, caldo, non so, qua è sempre metà stagione. E poi sono nervoso e mangio disordinato. Ma affronto tutto con stile. Sembro un perfetto lord inglese, anche se il mese deve ancora finire. Se non invito gente a casa, non è perché sono ostile. Ma tra i vestiti, il cane, i papi del trasloco c'è la guerra civile. E lo so che non è semplice, ma senza difficoltà in fondo che gusto c'è. Che nascono sotto una buona stella. Questo addirittura si intitola Buona Stella. Nasce sotto una stella un po' strana perché è un'uscita che qualcuno ha definito anticommerciale. Sono molto contenta che finalmente sia uscito questo album che è scritto nelle stelle ed era scritto nelle stelle che uscisse. Benvenuto a Gaemon, ciao Gianluca. Ciao, grazie Marco. Allora, Gianluca, era... grazie dei complimenti. No, beh, allora sai che io sono una fan e quindi non c'è niente da fare e gli ascoltatori lo sanno. Avevamo già parlato del tuo disco 2 settimane fa perché, allora, io lo sono un disco rotto, lo dico sempre, far uscire un album adesso è un'operazione rischiosissima. Per tanti è retorica dire ma io l'ho fatto per i fan, eccetera. Tu eri contentissimo dell'uscita di quest'album di cui ci raccontavi tantissimo nei social. E allora adesso ti faccio la domanda fatidica. E poi cos'è successo e cosa hai provato, Gianluca, quando poi siamo stati travolti da tutto con un album e un tour lì pronti? I primi giorni, devo dirti la verità, sono stati come per tutti di grossa confusione e senza molti punti di riferimento. Cioè tuttora in qualche maniera non ne abbiamo tanti, sicuramente però sappiamo molto di più. Ma conta che veramente eravamo, dopo che questo disco mi ha, come dire, preso più di un anno di lavoro, ma di lavoro intenso, cioè tutti i giorni studio, a volte anche le notti. E dopo 4 settimane di prove di fila, quindi siamo proprio usciti dalla, come si dice, dalla sala prove e abbiamo scoperto che quelle 4 settimane di lavoro di fila non sarebbero andate da nessuna parte. Abbiamo detto scusate, rientriamo dentro se volete, così, così magari cambia. All'inizio è stata così, poi tutti... visto che va detto che certe cose vanno prese, al di là che con rammarico e con dispiacere, vanno pure prese con una minima di filosofia. Questa è una cosa che non riguardava solo me, solo noi, solo la mia band, solo i miei tecnici, c'era tutto il mondo, quindi c'era poco da star lì a lamentarsi come se la sfiga avesse colpito sempre noi, perché poi alla fine ci mettiamo in una zona di comfort quando ci dobbiamo lamentare, no? Per me, oddio, capitano sempre tutti a me, in questo caso no, ed era da rimboccarsi le maniche. E quando c'è stato da prendere una decisione per farlo uscire questo disco, me le sono rimboccate e ho detto facciamolo uscire. Decisione non facile. Ti faccio una domanda che sembrerebbe banale, però chi lo sa cosa sta dietro a un disco, a un tour. Quante persone stavano lavorando con te a questo tour in particolare? Allora, parlo come se fossi un vero tecnico, diciamo, dei numeri. Se volessimo contare tutta la filiera dovremmo essere quasi a 30. Se volessi contare solo le persone che erano, diciamo, che si occupavano solo dei concerti, palco, eccetera, eccetera, erano 15. È anche vero che le persone a volte non lo sanno, ma è anche vero che gli artisti certe volte fanno passare il messaggio che per essere un bravo artista sei baciato in testa da un talento, e poi ti arriva una caterva di privilegi e in mezzo non c'è niente, quindi non ci sono scadenze, non ci sono pagamenti, non ci sono tasse, non c'è lavoro, non c'è sudore, non ci sono sacrifici. Ecco, diciamo la verità, ci sono tutte come tutti i lavori. Anche gli artisti hanno le scadenze, questa è una nuova, questa è una nuova, è un nuovo mantra che utilizzeremo. Dai, parliamo un po' di Scritto nelle Stelle, perché c'è una cosa che mi piace tantissimo di questo album ed è la tua serenità e il percorso che fai dalla prima traccia all'ultima, raccontando tra le righe di un percorso che hai fatto tu. Cioè, sì, delle tue insicurezze, delle tue sicurezze momentanee, dell'amore che fa male, dell'amore che salva, del rapporto con gli altri. Non è scontato raccontare, è proprio come un viaggio, dalla prima traccia all'ultima, anche molto coerente come passaggio, raccontare tanto di te. Diciamo che c'è stata una scelta molto presto nella mia carriera di dire la verità, quando mi sono accorto che per inventarmi tutto mantenendo un personaggio avrei dovuto fare doppia fatica, uno per inventarmi le bugie, due una fatica a livello di memoria per ricordarmele e sostenere. Quindi ho detto, io dico quello che veramente mi sta capitando, e questo disco è capitato, sono le riflessioni di un momento di vita adulto, di un adulto in una relazione che prima ne ha avute altre, che sono andate bene, non sono andate male, che ha avuto, ha salutato in qualche modo qualche amico con rimpianti, con rabbia, che ha attraversato una depressione, che ha attraversato dei forti disturbi alimentari. Quindi proprio vero che è un disco sereno, perché è un disco di accettazione che le cose difficili poi ti portano comunque a reagire, ad andare avanti. Quindi non è un disco allegro senza motivo, è un disco che è molto realista, ma ogni tanto nella vita si può essere anche contenti dei passi in avanti che si fa. Allora, io questa cosa secondo cui, cioè, io sono convinta che le persone che hanno abbracciato il fatto di avere passato una depressione clinica e ne parlano con serenità, si riconoscano quando si guardano in faccia. E siccome io ne ho sempre parlato con serenità, non è facile. E nell'ambiente della musica questa cosa com'è vista? Allora, ti devo dire che inizialmente ci è voluto un po' di coraggio a parlarne, però vabbè, io non avevo dubbi, nel senso che non desideravo nessuna compassione sull'argomento, cioè volevo, come dire, fare condivisione della mia esperienza. Tra l'altro, nel momento in cui ne parlavo, io la stavo comunque vivendo, quindi, diciamo, come dire, non c'avevo nessuna formula magica per superarla, ma volevo, per tutte le persone che per DNA familiare si vergognavano della cosa o non ci volevano mettere, pensavo che parlarne e dire non vi preoccupate che non la vivete solamente voi, è una cosa che conosciamo tutti, quello all'inizio ci voleva coraggio. Quando ne ho parlato in questi termini, cioè senza la ricerca della pacca sulla spalla di qualcuno che mi dicesse poverino, mi è capitato anche in giro nelle radio, nelle TV, di vedere anche dietro le quinte tanti tecnici e tanti addetti ai lavori che venivano a dirmi grazie, come per dire veramente hai scoperchiato questo argomento, e quindi mi sono reso conto che forse ero sulla strada giusta, perché stavo parlando di una cosa che a volte anche lambisce solamente la vita, perché magari non ti tocca direttamente, ma qualcuno che tu hai a cuore, dopodiché non lo so, gli argomenti vengono presi sempre da come tu li tratti, no? Come un vestito, dipende se lo sai portare, quindi evidentemente non ho suscitato emozioni negative. E come porti i vestiti tu lo sappiamo, perché anche quella è una cosa che ti caratterizza. Gli altri, nel disco parli spesso degli altri, gli altri sono anche i fan. Io ho citato questa cosa un paio di settimane fa in trasmissione, perché tu ti sei inventato gli in-store digitali. Allora, un'altra cosa che spesso sottolineo è quanto gli in-store adesso siano importanti, cioè quelli che si chiamano anche firmacopie in italiano, sono importanti, certo, per gli artisti che portano in giro i loro dischi. E a volte faccio la battuta, se gli store ormai li fanno anche artisti come Francesco De Gregori, vuol dire che sono importanti per, certo, tutti. Sono importantissimi per i fan perché riescono ad avere un contatto diretto, più che in un concerto, è proprio il raccontarsi. I tuoi in store non ci potevano essere, allora cosa ti sei inventato, Gianluca? Mi sono inventato che tutte le persone che avevano preordinato il disco dal sito, diciamo, dei Artispers, del distributore, hanno ricevuto e stanno ricevendo una email giorno per giorno con un codice per una videochiamata, e facciamo delle videochiamate con dei piccoli gruppi e parlo direttamente con loro, gli chiedo cosa pensano del disco, se gli è arrivato a casa, scambiamo una battuta, e ti dico che so che l'immagine di questa cosa da fuori è sicuramente che è una trovata originale, ma seppure effettivamente siano dei firmacopie virtuali, l'amore è proprio reale. Quando vedi in faccia delle persone che non ti conoscono, però con cui condividi una cosa e ti sorridono, sono contente di passare quei 5 minuti con te, in realtà quello che è veramente arricchito sei tu. Senti, mi pare un'idea che nata in tempi di emergenza però potrebbe rimanere. Certo, un artista deve essere anche piuttosto generoso col suo tempo, perché immagino che sia una cosa che in questi giorni ti impegnerà moltissimo, però è un'idea bella. Grazie, no, vabbè, sicuramente ci sono dei piccoli paletti da mettere, nel senso che io sono anche uno riservato e certi momenti devo, come dire ok, stop. Perché è come avere un negozio di cui tu sei il proprietario e ci lavori dentro, aperto 24 ore su 24, no? Poi il servizio alla fine diventa scadente se non dormi mai. Quindi, però si può sicuramente, in questo periodo ci sono diverse cose che si possono fare salve come idee, cioè come si è parlato di mantenere il concetto di smart working come diritto fondamentale per il futuro, anche io ho le mie idee di smart working che possono ritornare utili, non solo per emergenza, ma anche dopo. Ti chiedo un'altra cosa, un'ultima cosa, perché mi sembra che Scritto nelle Stelle abbia molta consapevolezza, anche se sei un millennial e quindi di esperienze devi farne ancora. Prima di raggiungere noi della generazione X ce ne vuole ancora, Gianluca. Però in questa carriera che tu hai costruito poco a poco, perché questo è il sesto disco se non sbaglio. È il mio sesto disco, sì. Carriera costruita mattone su mattone, popolarità poi esplosa con Sanremo. Quanto è bello e importante, anche se difficile, come spesso sono belle le cose difficili, raggiungere un successo così solido col tempo? Bello, perché ne sei, come hai detto tu, ne sei sicuramente più consapevole, nel senso che gli estremi sono meno accentuati. Cioè, non sei all'improvviso che una cosa va bene un giorno e dici ce l'ho fatta, e nemmeno che se una cosa stenta a decollare o ci mette il suo tempo, sei là che dici ok, non è andata, devo cambiare lavoro. Alla fine l'esperienza ti insegna, se ce l'hai fatta, diciamo, le volte precedenti, ti insegna che ce la puoi rifare un'altra volta quando si ripresentano dei momenti, punto interrogativo. Quindi, per me la costruzione della mia carriera una persona alla volta sta pagando. Allora, io devo dire però agli ascoltatori che se non si fosse capito, questo disco è anche da abballare, molto funky, con sempre la sensualità, sensualità, fatemelo dire bene, di Gaemon che viene fuori, anche per passare, non solo per riflettere, ma anche per divertirsi un sacco. Gianluca, ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio forte e quando sarà finito tutto io mi presento sotto casa tua, ti rapisco, non so come perché sei altissimo, io proprio non so come fare, però ti porto di peso a Radio 24 perché ti voglio in studio. Mi faccio trovare già dentro a un carrello della spesa, così è più facile da trasportare. Gianluca, un abbraccio, grazie tantissimo. Grazie. Ciao, grazie. Radio Tube Social Village. Ieri sera in tanti eravamo davanti al concerto del 1° maggio, ne parleremo tra poco nella nostra seconda ora, quella di Radio Tube Social Network. Ma se non fosse stati, se voi non fosse stati attenti, foste stati attenti, insomma mi sto incastrando da sola con le parole, come me, a tutta la programmazione del 1° maggio vi sareste persi una chicca, ma siccome io non volevo perdermi questa chicca, questa mattina mi sono svegliata, ho aperto Rai Play e ho recuperato un evento che c'era ieri sera su Rai 5, ma che è fortunatamente disponibile su Rai Play, quindi... E niente, ho scoperto una vera chicca. Cioè, io ieri sera dovevo seguire il concerto del 1° maggio per ragioni lavorative ed è stato un bel evento, ne parleremo tra poco. Ma questa cosa che è andata in onda ieri sera su Rai 5, ma che fortunatamente è ancora disponibile su Rai Play, e adesso credo di averla detta per bene, è proprio da non perdere. Quindi, solo un assaggino, eccolo qua. Il lavoro è uno di quegli argomenti di cui ti verrebbe voglia di non parlare. Perché è rischioso, anche lui. È un argomento potenzialmente così retorico. Ma come fai a non parlare di lavoro? Come fai a non tentarlo un discorso sul lavoro? Diceva un famoso economista francese dell'Ottocento, Frédéric Bastiat, che ognuno di noi, ogni giorno, usa oggetti, cose, invenzioni che se avesse dovuto realizzarle lui da solo, con la sua testa e con le sue mani, non gli sarebbero bastati secoli. Questa è la bellezza del lavoro. Salire sulle spalle di qualcun altro. Mettere al servizio degli altri la propria competenza, la propria mente, le proprie mani, per migliorare un po' la vita altrui. Titola Sul lavoro fondata, persone, mestieri, pensieri. È stato il 1° maggio a teatro di Rai 5, ma davvero un gioiellino. Io sono rimasta conquistata da quest'opera, da queste letture piene di aneddoti interessanti, piene di storie per riflettere sul lavoro, ma non solo. Da Abramo Lincoln a George Orwell a un operaio che vince il Totocalcio negli anni 50 fino a Pinocchio, tantissime storie raccontate in una Firenze deserta ma meravigliosa, da una persona che vorrei ancora più spesso in TV, certo anche a teatro, però in questo momento è l'unico modo per potersi avvicinare agli spettacoli teatrali e questo è un modo bellissimo. Stefano Massini, benvenuto a Radio Tube, grazie Stefano. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Stefano, io sono rimasta ipnotizzata davanti a questo, no davvero, davanti a questo Sul lavoro fondata, che io l'ho confessato, io sono una ragazza sincera, l'ho visto questa mattina su Rai Play. Ragazzi, che bello! Ho scoperto tra l'altro un sacco di cose che non sapevo, perché è una miniera di aneddoti sul lavoro, una miniera di racconti, una storia dietro l'altra, che tu, con la complicità di bravissimi musicisti, perché ci sono Stefano Corsi ed Enrico Fink, che ti tengono compagnia a distanza con queste musiche meravigliose. E poi c'è questo spazio, secondo me, incredibile, che è bellissimo e agghiacciante al tempo stesso, che è la cavea del Maggio Musica, del teatro, del nuovo teatro dell'Opera di Firenze, che è veramente uno spazio importante che in questo caso racconta soprattutto l'assenza di persone, perché vedi, io tengo a dire che questa cosa è nata perché nel 2018, 2 anni fa, io ero invece sul palco del concertone del 1° maggio a Roma, in Piazza San Giovanni, e mi ricordo questa un'esperienza incredibile per me, perché andare a parlare davanti a quelle decine di migliaia di persone è una cosa veramente incredibile. E a distanza di 2 anni ho voluto quest'anno, visto che tutto è bloccato e l'assembramento è vietato, ho voluto raccontare soprattutto l'assenza, no? Cioè, invece che la presenza delle persone, l'assenza delle persone. Quale luogo migliore che quel luogo lì, che si è fatto apposta, ecco, per raccontare la mancanza di esseri umani. Hai paradossalmente messo in scena un teatro senza teatro, senza pubblico, eppure è teatro lo stesso, è il teatro che possiamo fare in questo momento? Guarda, questa è una domanda molto complicata, però ti ringrazio di avermela fatta, perché in realtà io ti dico francamente, dunque io ormai sono 3 anni che faccio televisione tutti i giorni di sera sulla 7, e quella per me però è una forma particolare di linguaggio, perché quando vai in televisione devi scegliere una via tua, no? Un linguaggio tuo che è molto diverso da quello del teatro. Io tengo molto a dire che perfino in questo momento così particolare il teatro dovrebbe comunque accettare, secondo me, di rimanere per il momento sospeso fino a quando, ci auguriamo prestissimo, non potrà ricominciare con anche poco, però con il pubblico dal vivo, perché lo spettacolo teatrale ha la sua caratteristica nell'essere spettacolo dal vivo, nell'essere qualcosa che accade tra persone presenti in carne e ossa. Quindi meglio poche persone, però non tradire lo statuto fondativo del teatro, che è quello di essere spettacolo dal vivo. Questa cosa che ho fatto io, per quanto si svolgesse in un teatro, anche se usato in un modo particolare, perché non c'era palcoscenico, per cui io in realtà giravo in mezzo a queste gradinate, ripeto, accecanti, marmore, sembra teatro, è fatto da uno come me che è nato in teatro, ma per me questa comunque è televisione, non è teatro, perché il teatro si fa con le persone in carne e ossa davanti le une alle altre, e questa è un'altra formula, è un altro modo, ed è televisione, se vuoi, con una chiara ascendenza di tipo teatrale, ma è televisione. Tra le tante storie che racconti in questo Sul lavoro fondata c'è quella di George Orwell e della sua divisione tra George Orwell, lo scrittore, e Eric Arthur Blair, che era il suo nome anagrafico, e la sua vita con mestieri più normali, possiamo dire, ma più o meno poi nel suo caso. Io sono noiosissima per tante ragioni, per questa in particolare. Ultimamente, anche adesso, con Gemon e con Alex Britti, che abbiamo avuto in trasmissione, ho parlato del problema dei lavoratori dello spettacolo, e tu hai fatto in questo Sul lavoro fondata, hai spiegato come sia difficile parlare di lavoro quando si fa un lavoro relativo allo spettacolo. George Orwell aveva deciso di dividere la sua vita in due identità. Ci sono persone invece che campano di questo, è difficile farlo capire, e tu a Piazza Pulita avevi fatto proprio un appello al quale hanno aderito moltissimi artisti: io non sono inutile, è una cosa importante. Sì, lo sono assolutamente, ci sono tornato tra l'altro anche ieri altro a Piazza Pulita, nel senso che c'è stato questo fatto, no, che è accaduto pochi giorni fa, di cui hanno riferito i giornali, cioè in provincia di Rimini una persona è andata a prendere il proprio strumento musicale nello studio di registrazione per poter continuare poi a esercitarsi a casa con il proprio strumento musicale, l'hanno fermato. Posto di blocco, lo fermano, gli chiedono scusi, lei dove sta andando? Io sto andando a prendere lo strumento per portarlo a casa perché sono musicista professionista. Multato perché? Perché se l'architetto va a prendere i faldoni o i progetti allo studio per continuare a lavorarci a casa, è lavoro. Se il medico va a prendere lo stetoscopio per continuare a casa propria, diciamo, a fare magari qualche visita privata, urgente, quello è lavoro. Se invece il musicista va a prendere lo strumento musicale, quello è hobby, così gli ha detto il poliziotto. Ecco, questo trovo che sia una cosa veramente aggressiva. Il lavoro degli artisti non è riconosciuto. Non è riconosciuto, è un lavoro che tenta a essere accettato. Io ho raccontato quello che mi successe personalmente quando l'ultima volta che andai alcuni anni fa a rinnovare la carta d'identità, l'impiegata all'anagrafe mi chiese se volevo scrivere il mio mestiere sulla carta d'identità, io mi scrissi si scriva scrittore di teatro, e questa alzò gli occhi, si mise a ridere, rosse gli occhiali e mi disse no, bisogna dire il lavoro vero. Ecco, e alla fine cosa c'è sulla tua carta d'identità, alla Stefano? Fine, sulla mia carta d'identità, nonostante la mia insistenza di scrivere scrittore teatrale, scrittore di teatro, la signora ha deciso di sua iniziativa di scegliere un'altra soluzione, cioè sulla mia carta d'identità c'è scritto lavoratore autonomo, perché proprio non accettava lei l'idea, capito, che qualcuno potesse avere scritto che ma siamo a questo, siamo proprio a questo. L'altro giorno, allora, io da quando ho fatto quella cosa a Piazza Pulita alcune settimane fa, quella a cui ti riferivi tu, no? Io non sono inutile. Beh, da allora il mio appello è stato, e li ringrazio ancora per questo, perché è stata una cosa molto importante, è stato condiviso e rilanciato dai maggiori, dai più importanti, no? Cantanti e cantautori italiani, da Vasco Rossi a Jovanotti, da Laura Pausini, da Mazzotti, Renato Zero, veramente tantissimi, e molti mi hanno telefonato anche, e poi questa cosa è diventata anche di tantissime figure come attori, registi, cantanti lirici, danzatori, cioè tutte persone che si sono trovate riunite, no? In nome di quella cosa che io feci sugli artisti e sull'arte. Però la cosa che mi ha lasciato esterrefatto è stata che l'altra sera, dopo aver fatto a Piazza Pulita di nuovo un intervento, no? Sull'occasione del fatto del primo maggio, quei lavori che io ho chiamato i lavori negati, i lavori derisi, quelli che quando qualcuno ti chiede che lavoro fai non sai se rispondere o no, perché magari non capiranno, oppure faranno battute fuori luogo, oppure ti chiederanno qual è il lavoro vero, certo, oppure ti certo. Che non è un lavoro. Ecco, la cosa che mi ha stupito è che dopo aver fatto questo pezzo, io sono stato sulla mia pagina Facebook, chiunque ci ascolti adesso lo può andare a vedere, se dico sciocchezze, sono stato veramente sommerso di centinaia di messaggi di persone che, come vedrete se andate a guardare, a scorrerli, parlano della stessa identica sofferenza, posso dire umiliazione, che hanno provato con lavori completamente diversi. Pazzesco. Ma quello che dice io faccio il pastore, quello che dice io faccio la casalinga, e ogni volta che mi chiedono che lavoro faccio io rispondo faccio la casalinga, e mi dicono no, non lavoro. Quelli che sono pensionati, quelli che non hanno un lavoro, quelli che fanno i freelance, quelli che fanno i precari, quelli che fanno i rider, lì c'è un catalogo incredibile di persone che dicono io ho provato la stessa cosa, perché anche il mio mestiere, nonostante non sia artistico, si, diciamo, va a battere contro un muro di pregiudizi. Stefano, ti devo ringraziare tantissimo. Allora, sul lavoro fondata, andatelo a recuperare su Rai Play, ma anche Lehman Trilogy, il bellissimo spettacolo di Luca Ronconi. Grazie a Stefano Massini. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio.